America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono qui nella capitale americana perché cominciano, per ora in modo informale, ma cominciano questa settimana i lavori del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, e sono qui anche perché c'è stato negli ultimi giorni un intensificarsi delle attività internazionali, oltre che sul fronte economico, su quello politico. Ci sono due crisi parallele: da una parte la crisi economica, dall'altra una crisi internazionale che riguarda l'Afghanistan, la Corea del Nord, l'Iran, la Siria. E dunque su ciascuno di questi punti nel fine settimana ci sono stati degli sviluppi importanti. Il primo, il più rilevante, una svolta sulla Siria. Sabato pomeriggio il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione contro la Siria e la prima volta dopo 13 mesi di guerra civile che il Consiglio di sicurezza riesce a trovare il consenso per questa risoluzione. E poi dalla Corea del Nord, dopo il fallimento del lancio del missile che doveva portare un satellite in orbita, come avevo anticipato, c'è stato un rilancio della provocazione. Kim Jong-un ha mostrato in piazza ieri, nell'occasione di una celebrazione in onore di suo nonno, c'è stata una parata militare, un nuovo missile, questa volta ancora più minaccioso perché ha una parvenza militare. E infine, altra notizia molto preoccupante, soprattutto per noi che abbiamo militari schierati al fronte in Afghanistan: i talebani hanno annunciato l'insurrezione di primavera. Non l'hanno annunciato soltanto a parole, ma con un attacco multiplo al Parlamento afghano, a varie postazioni militari, a delle prigioni. Hanno attaccato una prigione in Pakistan e liberato 380 prigionieri, dunque un rilancio della sfida. Ciascuna di queste situazioni sarà affrontata da qui ai prossimi due mesi nel contesto multilaterale, nel contesto del G8 e del vertice NATO per la parte politica, nel contesto del Fondo Monetario di questa settimana e del G20 a Cabo San Luca in Messico per la parte economica. The United States are probably beginning to turn the corner. Christine Lagarde, Madame Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, la settimana scorsa in un discorso alla Brookings Institution, un discorso di preambolo alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, che inizieranno questa settimana, ha detto che per la parete antincendio, antifuoco, per la firewall che dovrebbe stabilizzare il problema del debito sovrano in Europa, il fondo non avrà più bisogno di 500 miliardi di dollari, ne basteranno di meno. The days when we could think of each of our economies in isolation, those days are long gone. What happens in Wall Street has an impact in Rio. Barack Obama sarà un protagonista di questi mesi intensi che ci attendono, e lo avete sentito qui che parla già durante questo fine settimana, perché in realtà, come vi dicevo, il quadro passa per Fondo Monetario, Banca Mondiale, Vertice NATO, G8, incontro del G20, ma è passato anche già nel fine settimana per il Vertice delle Americhe a Cartagena in Colombia. Barack Obama è arrivato venerdì sera per partecipare a questo vertice di 34 paesi sudamericani, centroamericani, paesi delle isole. L'unico assente era Castro. Ecco, qui devo aprire una parentesi forse un po' ludica, perché in mezzo a questa progettazione, in mezzo a questa architettura da una parte economica, dall'altra politica, in mezzo allo sforzo multilaterale, c'è stato un episodio di cronaca a Cartagena, così diciamo un po' piccante. Cos'è successo? Che degli agenti segreti che erano stati inviati a Cartagena per poter bonificare l'albergo El Caribe dove sarebbe arrivato Barack Obama, sono stati pizzicati con delle prostitute. È stato uno scandalo perché uno di questi agenti ha cominciato a litigare, sembra, sul prezzo con una delle prostitute nella hall dell'albergo. Questo ha attirato l'attenzione degli agenti colombiani e scoppiato ovviamente un putiferio, perché ci si è accorti che di prostitute ce n'erano di più, che gli agenti coinvolti erano molti di più. Risultato: il US Secret Service, che direi è un po' la punta di diamante delle agenzie pubbliche americane, sono gli agenti segreti che proteggono non solo il presidente ma i dignitari stranieri in visita negli Stati Uniti. Ebbene, questi 11 sono stati immediatamente rimpatriati, sospesi dal lavoro, è partita un'inchiesta che, come potete immaginare, ha creato un certo imbarazzo alla Casa Bianca e raccolto molta attenzione non voluta da parte degli organi di stampa. Bene, comunque, al di là degli scandali rosa, avete un po' le coordinate per poter trarre conclusioni, direi anche sul piano economico, delle scelte per i vostri investimenti da quel che succederà questa settimana, molto importante, vi dicevo, per il Fondo Monetario Internazionale. Sul piano politico, naturalmente, sappiamo quanto l'esplosione di una polveriera, per esempio in Iran, in Siria, la stessa Corea del Nord, può avere delle ripercussioni sui mercati. Ecco, la mia impressione è che si stia lavorando piuttosto alacremente per cercare di risolvere queste crisi multiple. Non è un caso, secondo me, che ci sia stata questa reazione così dura da parte dei talebani, una reazione minacciosa, una reazione che crea un problema al vertice NATO che si terrà a Chicago, ve l'avevo anticipato prima, perché se da una parte le forze della NATO che vogliono ritirarsi hanno visto una reazione da parte delle forze afghane che hanno reagito e contrattaccato contro i talebani, c'è da chiedersi che cosa succederà nel momento in cui queste forze NATO non dovessero più essere di stanza in Afghanistan. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo a Bruce Springsteen. Beh, intanto perché ha deciso di allungare il suo tour, che ha avuto un successo straordinario, ma perché ha diffuso un video, Death to My Hometown, cantata live durante uno di questi concerti, che si adatta benissimo alle tematiche di cui vi ho parlato prima, perché è un testo drammatico in cui si dice che i marauders, queste specie di avvoltoi che sono venuti, hanno distrutto queste città americane, hanno distrutto soprattutto la sua città, distruggendo le fabbriche e prendendo possesso delle case. Ha cantato questa canzone con Tom Morello, che è uno dei grandi attivisti del movimento Occupy Wall Street, oltre ad essere un cantante lui stesso. Dunque, di Bruce Springsteen, Death to My Hometown. Oh, no cannonball did fly, no rifles cut us down. No bombs fell from the sky, no blood soaked the ground. No powder flash blinded the eye, no deadly thunder sound. But just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown. They brought death to my hometown, boys. Ripped the evening sky, no cities burning down, no army stormed the shores for which we die, no dictators were crowned. I awoke on a quiet night, I never heard a sound. Marauders raided in the dark and brought death to my hometown, boys, death to my hometown. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.